Hashtag Autotrasporti. Un saluto da Andrea Ferro, hashtag Autotrasporti va in onda in una giornata segnata dal dramma del terremoto che ha sconvolto un pezzo d'Italia, paesi distrutti, feriti, sfollati, danni incalcolabili, compresi quelli alle infrastrutture, strade e linee ferroviarie interrotte, collegamenti ancora difficili. Il terremoto ha infierito sull'area del paese che più di tutte soffre sul piano della mobilità e della logistica. Appena una settimana fa ne avevamo parlato da Cernobbio con il rapporto di Conftrasporto che aveva fotografato il deficit infrastrutturale del nostro paese e le ripercussioni sull'economia e la competitività internazionale. Un paese spezzato in due con il centro a fare da cuscinetto tra nord e sud. La rete infrastrutturale di Umbria, Marche e Abruzzo, quindi proprio le zone colpite dal terremoto, è la più arretrata al punto che in quest'area tra il 2010 e il 2014 i volumi di traffico sono diminuiti in maniera nettamente superiore alla media nazionale. Per unire il paese occorrono certamente investimenti da inserire all'interno di un disegno strategico ben delineato, altrimenti il rischio è perpetuare una politica infrastrutturale che non mette in relazione le opere, gli interventi, le modalità di trasporto. Sui ritardi e sul deficit logistico che l'Italia sta scontando proprio come conseguenza di questa mancata programmazione, abbiamo intervistato il professor Ennio Cascetta, coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti. Italia spaccata in due. Ma sicuramente l'accessibilità del mezzogiorno rispetto al resto del paese, ma anche al suo interno, sono assolutamente insufficienti. Molti hanno paragonato la realizzazione meritoria, assolutamente meritoria, della linea di alta velocità Torino-Milano-Roma-Napoli alla costruzione dell'autostrada del sole, cioè l'inizio di una nuova stagione, un nuovo mezzo di trasporto che unisce il paese. Ecco, però è come se durante la stagione della costruzione delle autostrade ci fossimo fermati all'autostrada del sole. È assolutamente necessario portare i benefici di un'alta velocità ragionevole, cioè di un'alta velocità alla tedesca per capirci, non alla francese dei ricchi come abbiamo fatto negli anni in cui si poteva quindi fare. Veloce ma non troppo efficiente soprattutto. Veloce ma non troppo, quindi una linea snella, veloce, il giusto, ma veloce alla tedesca appunto dai 200-250 km all'ora, che consenta innanzitutto al sud del paese di essere connesso con se stesso. E di connettersi con il resto dell'Italia e con il nord dell'Europa. Poi vorrei fare anche un'altra riflessione su questo bisogno di connettere. Noi dobbiamo guardare, quando si fa un'infrastruttura di trasporto, gli orizzonti sono diversi da quelli a cui siamo abituati a pensare. Io lo dico sempre ai miei studenti a Napoli, loro quando vengono all'università usano un passante ferroviario che ha 90 anni e lo usano tutti i giorni. Bene, fra 90 anni l'Africa sappiamo che avrà 4 miliardi di abitanti e quindi quando infrastrutturiamo il mezzogiorno non dobbiamo sempre solo guardare, come giusto e necessario, al nord del paese, al nord del continente. Dobbiamo anche vedere che quella, cioè la Sicilia, ben connessa col continente, ben connessa con il resto d'Europa, è la parte più vicina, solo la Spagna sta meglio di noi, la parte più vicina a un continente che, se lo vediamo oggi, vediamo solo rovine e guerre civili, ma se lo vediamo fra 30-40 anni potrebbe essere la nuova Cina, la nuova area di espansione dell'economia del mondo. E rimaniamo sulla stretta attualità. Venerdì ad Annone Brianza, in provincia di Lecco, il crollo del cavalcavia al passaggio di un trasporto eccezionale. Una vittima, alcuni feriti e un'inchiesta della procura per accertare le responsabilità. Il caso porta alla ribalta anche la questione dei trasporti eccezionali e delle norme del codice della strada che ne regolano il transito. Su questo punto è intervenuto Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto. Si tratta di un fatto importante che mette alla luce un elemento, e cioè che in Italia girano troppi veicoli eccezionali con una portata di 108 tonnellate, mettendo a rischio il manto stradale, che poi necessita di manutenzioni che tutti i cittadini pagano, e mettendo a rischio la tenuta dei manufatti, come quello che è successo purtroppo quasi certamente in provincia di Lecco. Allora, il problema è fare come, non lo stolto che guarda il dito anziché la luna, il problema è intervenire per riportare a veicolo eccezionale, quindi a trasporto eccezionale, quello che effettivamente è eccezionale, e non consentire attraverso una applicazione piuttosto elastica delle norme del codice della strada, di utilizzare un mezzo eccezionale senza che un pezzo sia indivisibile per peso, quindi superi i pesi legali, ma di fatto consentendo di far risparmiare a una certa committenza, perché invece di utilizzare tre camion per fare tre viaggi, ne utilizzano uno con 108 tonnellate e scaricano le conseguenze sui cittadini incolpevoli, che oltretutto sono chiamati a pagare anche le conseguenze di queste scelte. La decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi internazionali, il decreto legislativo sulle misure antidumping, gli incentivi a favore dell'intermodalità mare bonus e ferro bonus sono state le questioni principali al centro dell'incontro che si è svolto al Ministero dei Trasporti tra il sottosegretario Simona Vicari e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Cosa è emerso? Sul fronte della decontribuzione, dopo lo stop di Bruxelles, si utilizzerà il meccanismo de minimis. L'Inps sta predisponendo la relativa circolare. La questione sarà approfondita in un nuovo incontro al Ministero del Lavoro. Sul fronte della lotta al dumping sociale, sentiamo Pasquale Russo, segretario di Unatras. È stato pubblicato questo decreto attuativo, che spiega ciò che le imprese devono fare nel momento in cui affittano o come dire somministrano lavoratori provenienti dall'estero. In particolare è stato spiegato la notifica che queste imprese dovranno fare al Ministero del Lavoro. Le organizzazioni dell'autotrasporto hanno spiegato che è necessario prevedere dei controlli efficaci affinché si possano verificare tutte quelle imprese che poi su strada in qualche modo non hanno documentazione relativa alla comunicazione, o a questo punto mancata comunicazione, che deve essere fatta al Ministero del Lavoro nel momento in cui si somministrano lavoratori. In sostanza si è posto il problema di dire cosa avviene per il controllo su strada di questi lavoratori in affitto nel caso in cui l'impresa non l'ha comunicato, e quindi da qui si è convenuto sulla necessità di individuare anche uno strumento normativo che obblighi le imprese che somministrano ad avere una certificazione su strada che sia idonea a verificare se le comunicazioni al Ministero in caso di somministrazione di lavoratori esteri sia stata fatta o meno, questo al fine di verificare che i lavoratori somministrati vengano pagati come i lavoratori italiani. Capitolo mare bonus e ferro bonus. Da Bruxelles tarda ancora il via libera agli incentivi. Lo stanziamento rimane quello previsto per il triennio 2016-2018. I fondi per il 2016, se non utilizzati entro dicembre, saranno fruibili nel provvedimento del 2017. E a proposito del rilancio dell'intermodalità, Ferrovie ha annunciato dal 2017 accordi quadro con gli operatori della logistica. Obiettivo: far salire la quota di merci trasportate sui binari, che oggi non supera il 7%. Sotto questo profilo in Europa siamo tra i paesi meno virtuosi. Al nostro microfono l'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile. Noi stiamo investendo molto con il nostro contratto di programma per le merci, collegando i porti, gli interporti, creando le condizioni perché la parte ferroviaria che è integrata nei grandi corridoi europei, che sono quattro per quanto riguarda l'Italia, siano disponibili. Però è anche evidente che questa capacità che noi andiamo a realizzare dovrà essere utilizzata, e dovrà essere utilizzata da soggetti che non seguono le regole, le leggi che può dare lo Stato, che può imporre, seguono esclusivamente il mercato. Quindi loro devono farci capire di questa capacità che noi vogliamo realizzare, quanta ne vogliono utilizzare prospetticamente in relazione ai loro programmi di sviluppo. Fare gli accordi quadro significa questo: concordare qual è la capacità che loro intenderanno utilizzare e indirizzare gli investimenti in modo coerente. Nel 2018 i treni ad alta velocità o alta capacità? Stiamo portando avanti questo progetto con una impresa ferroviaria, l'unica finora che ci ha chiesto di poter utilizzare la linea ad alta velocità per il trasporto delle merci. Ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, è una condizione che deriva proprio da come queste linee sono state costruite. Ovviamente la linea ad alta velocità pura, così come la conoscono tutti coloro che usano i treni ad alta velocità, è anche alta capacità non solo perché può consentire il transito dei treni merci, ma anche perché è fortemente interconnessa con i sistemi invece della rete convenzionale, ed è un uso integrato ed intelligente di questi sistemi interconnessi che consentono poi di utilizzare bene anche la linea ad alta velocità per le merci. 2018 quindi. 2018. Oggi mi fermo qui, noi ci risentiamo con hashtag autotrasporti lunedì alle 13.45, sempre in coda ad effetto giorno. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.